Sei il Dio della gioia e sei il mio Dio, il mio cuore, la mia carne anelano a te. Ed esulto di gioia alla tua dolce presenza, con canti di lode. Contemplare il tuo volto, Signore. Sei tu la fede, sei tu la speranza, sei tu la carità, mio Dio. La certezza, la sapienza, la fiducia e la gioia per me ora in te. La fiducia e la gioia per me ora in te. Sei l'essenza d'ogni cosa, infinito amore, la mia anima si inebria della tua luce. Quale grande ricchezza la mia vita nascosta in te, più ricchezza non c'è. Benedirti in eterno, Signore. Sei tu la fede, sei tu la speranza, sei tu la carità, mio Dio. La certezza, la sapienza, la fiducia e la gioia per me ora in te. La fiducia e la gioia per me ora in te. Sei tu la fede, sei tu la speranza, sei tu la carità, mio Dio. La certezza, la sapienza, la fiducia e la gioia per me ora in te. La fiducia e la gioia per me ora in te.